Before we continue with the dialogue, you need some new words. Ha bisogno di alcune parole nuove. Come al solito, le ascolti e le ripeta in italiano dopo la seconda volta. Dobbiamo. We must. Dobbiamo. Prima. First, before. Prima. Devo. I must. Devo. La toilette. The toilet. La toilette. Vedi. You see. Vedi. Guidi. You drive. Guidi. Guidare. To drive. Guidare. Non so guidare. I can't drive. Non so guidare. Intanto. In the meantime. Intanto. Adesso ripassi il nuovo vocabolario. Com'è andata? Se non ha avuto problemi con il nuovo vocabolario, ascolti un verbo nuovo. Dovere. Must. Io devo. I must. Tu devi. You must. Informal. Lui deve. He must. Lei deve. She must. You must. Formal. Noi dobbiamo. We must. Voi dovete. You must. Plural. Loro devono. They must.